La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. La giovane Jelina e le volpi bianche. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. C'era una volta nell'isola di Hycnos una donna di nome Euterpe. Nell'antichità mitologica, il nome Euterpe apparteneva a una delle nove muse e il suo compito era quello di rallegrare i cuori degli uomini. Purtroppo, la donna Euterpe di questa fiaba che vado a raccontare aveva fama ad essere malvagia ed era rimasta vedova in circostanze misteriose. Euterpe aveva una figlia di nome Genoveffa e una figliastra di nome Jelina. Anche il padre di Jelina, che si chiamava Antonicco, era scomparso improvvisamente. Un giorno era uscito di casa per andare a lavorare nei suoi campi di cavolfiore e non fece più ritorno. Alcuni dissero che Antonicco fosse scappato via dalla moglie Euterpe per le sue crudeltà, ma in tanti pensarono che fosse impossibile che Antonicco potesse mai abbandonare sua figlia Jelina. Finalmente libera, Euterpe poté vessare con angherie e malvagità la figliastra Jelina, trattandola come fosse un asino da fatica, al contrario della sorellastra Genoveffa, che veniva servita e riverita con tutti i riguardi come fosse una principessa. Una mattina, poco prima dell'alba, Euterpe strattonò in malo modo Jelina dal sonno e, minacciandola con il nervo di bue, le ordinò di andare nei campi a raccogliere la rucola selvatica. Jelina non si oppose. Scese dal letto, prese il cesto con il punteruolo per tagliare la rucola selvatica e, senza nemmeno lavarsi, s'avviò verso i campi. Camminò e camminò, ma di rucola selvatica non c'era nemmeno un filo secco. All'improvviso Jelina trovò un grande olmo in fiore. Com'era possibile? Mai aveva visto quel grande albero. Il fatto ancora più insolito fu che ai piedi dell'olmo era cresciuto un cavolfiore grande. Ma com'era possibile? Anche se quello era un campo dove il padre di Jelina coltivava i cavolfiori, da quando egli era scomparso nessuno più vi seminava. Data la straordinaria grandezza di quel cavolfiore, Jelina non si fece altre domande, pose il cesto a terra e afferrò il punteruolo per tagliare la radice del cavolfiore. Subito una voce la implorò. «Ti prego, Jelina, non tagliare il mio cordone. Tira il cavolfiore e sradicami». Jelina rimase sorpresa, non tanto perché quel cavolfiore parlasse, quanto invece perché le parve che quella voce fosse la voce di suo padre, Antonicco. Dopo il primo smarrimento, Jelina afferrò il cavolfiore e lo tirò via delicatamente con tutta la radice. appena il cavolfiore fu estratto, la terra ebbe un forte sussulto. Jelina fece un salto indietro, appena in tempo, e proprio sotto quell'olmo s'aprì una voragine, in cui l'albero sprofondò. Al suo posto rimase un pozzo, stretto stretto. C'era dentro una scaletta di fune che scendeva verso il fondo. Perché quel pozzo e quella scaletta? Jelina si fece coraggio e pian piano vi discese. Più scendeva, più andava verso il buio, finché ad un certo punto i suoi piedi si fermarono sopra qualcosa di morbido. «Fai piano, Jelina, così mi disfi il pelosiano!» Una lanterna s'accese e illuminò una volpe bianca. «Ciao, Jelina! Io sono Tatanaia, la volpe portinaia! Benvenuta nella tana delle volpi bianche! Ti aspettavamo da un bel po', popparapopò! Ma non importa, se si sopporta, e per quel che è fatto s'è fatto, anche se il pelo si è disfatto. Vieni, Jelina, entra per questa porticina. Era quella una porticina di ginepro antico, con uno spioncino e un batacchio d'oro. Tatanaia bussò alla porticina. Toc, toc e toc. Ehi, sorelline, aprite, è arrivata Jelina. Lo spioncino s'aprì di scatto e spuntò fuori un musetto di volpe. Parola giusta e tutto sa giusta. Tatanaia rispose. Se l'adorabile sorellina spioncina aprirà la porticina, oggi mangerà arrosto di selvaggina. Volpe spioncina richiuse rapida lo spioncino, levò con un colpo secco il chiavistello, la porticina cigolando s'aprì e Jelina entrò nella tana. Appena fu dentro, vide un via vai di tante volpi bianche che s'affaccendavano ciascuna nel proprio compito. Una volpe che spazzava s'avvicinò a Jelina. Spazz, spazz, spazz! Ciao, Jelina, io sono Spazzolina! In fondo alla cucina c'era una volpe che lavava i piatti e pentole. Piapem, piapem, piapem! Ciao, Jelina, io sono Risciacquina! Un'altra volpe se ne andava in giro con un piumino a levare polvere da ogni parte. Pof, pof, pof! Ciao, Jelina, io sono Spolverina! Ce n'era una che sciacquava e risciacquava i panni. Splacete, splacete, splacete! Ciao, ciao, Jelina, io sono Lavanderina! Un'altra ancora cantava e stendeva i panni dove giungeva un raggio di sole che s'era infiltrato di tra le rocce. E tiro di qua, e tiro di là, il sole li asciugherà. Ciao, Jelina, io sono Stendina, la canterina. Un'altra infornava e sfornava pagnotte calde. Uff, uff, uff, ciao, Jelina, io sono Pagnotina. E infine c'era la volpe che passava lo straccio sul pavimento. Zappolo, zappolo, zappolo, ciao, Jelina, io sono Zappolina. Jelina non perse tempo e si mise anche lei ad aiutare le volpi bianche nei lavori di casa. All'ora del desinare giunse mamma volpe con la sua pelliccia argentata e luminosa, battendo un grosso mestolo di legno su un coperchio diede il segnale per apparecchiare. Tumb, tumb, tumb, tumb. A quel battere tutte le volpi si dettero da fare, anche Jelina, e in un momento la tavola fu pronta. Perfetto, figlie mie, e ova, tutte a tavola! Mamma volpe, dissero le volpi prima di prendere posto, abbiamo una nuova compagna che si chiama Jelina. Ha aiutato tutte noi nelle faccende di casa. Può sedersi con noi a tavola? Ma certamente. Vieni, Jelina, siediti qui accanto a me. E quanta delizia di cibo fu messa in tavola! C'erano lasagne al forno, polli arrosto, pane soffice come nuvole, dolci d'ogni specialità, dalla crema bianca al cioccolato, dalla gianduia alla panna montata e infine frutta a volontà, tranne l'uva, per via di una vecchia storia buffa capitata a una loro antenata. Sì, proprio quella in cui la volpe, nel voler afferrare un grappolo d'uva posto troppo in alto per le sue capacità salterine, peccò di superbia e, beh, sicuramente tutti ricorderete quella favola. Quando tutte finirono di mangiare, si alzarono da tavola e sparecchiarono. Eppure Jelina volle aiutare. Levò le briciole, lavò i piatti e le pentole, mise in ordine, spazzò la stanza e lavò per terra. Quando tutto fu riordinato, Jelina disse che doveva rientrare a casa, perché oramai s'era fatto tardi e la matrigna si sarebbe arrabbiata tanto da riempirla di botte. «Aspetta, aspetta, dolce Jelina», disse mamma volpe. «Tu sei una ragazza gentile e laboriosa, oltre che carina. Perciò voglio darti un premio, ma sarai tu a scegliere». Furono portate nella cucina due grandi ceste. Una conteneva vestiti e scarpe semplici, l'altra abiti di gran lusso e scarpe preziose. «Scegli la cesta che desideri», disse mamma volpe. Jelina, che era d'animo umile, scelse la cesta che conteneva vestiti e scarpe semplici. «Jelina», disse mamma volpe, «tu hai scelto la cesta che contiene umili vestiti e sarà tua, ma per la tua modestia io voglio farti dono anche dell'altra cesta». Tutte le volpi bianche gridarono di gioia e approvazione. Jelina fu vestita come una vera principessa. L'abito era bianco, di seta purissima, ricamato con perle, rubini, diamanti e un'infinità di merletti in tessuti di filo d'argento. Le scarpine erano di raso broccato e un fazzoletto di lino ricamato di bisso dorato le fu adagiato sulle spalle. «Ora vai pure, Jelina», disse mamma volpe. «Prima di lasciare la nostra tana, troverai appeso alla porticina un batacchio d'oro. Potrai averlo solo se risponderai bene all'indovinello che la nostra sorella Tatanaia ti proporrà». Jelina ringraziò le amiche volpi, salutò garbatamente e s'avviò. Giunta all'uscita, la porticina s'aprì. Tatanaia sorrise e domandò: «Sei pronta?» Jelina fece di sì con il capo. La volpe portinaia prese un cesto che conteneva dei piccoli rotoli di pergamena e invitò Jelina a sceglierne uno. Jelina ne prese uno a caso, lo diede a Tatanaia, che lo srotolò e lesse: «Camminerai senza muoverti, parlerai con chi non c'è e sentirai chi non vedi. Sembra impossibile, eppure tutti possiamo farlo. Sai tu che cos'è?» Jelina strabuzzò gli occhi e si domandò: «Ma come si può camminare senza muoversi, parlare con chi non c'è e sentire chi non si può vedere?» «Tutti lo facciamo, Jelina, anche tu», disse improvvisamente una voce. Jelina riconobbe subito il suono di quella voce. «Papà!» sospirò Jelina, guardandosi intorno. ma non vide che la volpe tatanaia. «Questa è la voce del mio papà, Antonicco», disse Jelina. «Ma forse che sì, o forse che no?» disse tatanaia. «Non capisco». «Eppure lo senti?» «Ma non lo vedo, eppure io sono qui, Jelina», disse ancora quella voce. «Dove sei, papà? Io non ti vedo». «No, che non puoi vedermi, figlia mia». «E perché non posso?» «Devi dirlo tu». «Ho capito. Sto sognando, è vero?» «O forse che sì, o forse che no?» ripeté tatanaia. «Ma sì, ora ci sono. Sognare. Ecco la risposta. Posso camminare senza muovermi, parlare con chi non c'è e sentire chi non vedo. Sognare, sognare. E tutti lo possiamo fare. Hai indovinato, Jelina? Ora puoi prendere il batacchio d'oro», disse la volpe tatanaia. «E il mio papà? Il tuo papà parlava nel tuo sogno. Ma non devi temere perché egli ti starà sempre vicino», la rassicurò tatanaia. «Bene, e ora che tu vada, Jelina, si è fatto tardi e io devo tornare a casa. Addio, dolce ragazza, e che il destino ti sia favorevole!» Dette queste parole, tatanaia rientrò nella tana e chiuse il portoncino con il chiavistello. Rimase la lanterna a far luce alla scaletta di fune e Jelina risalì. Quando la ragazza uscì dal pozzo, ritrovò il grande cavolfiore che pareva le sorridesse. Jelina lo raccolse e senza recidere le radici lo pose nella cesta, poi si avviò verso casa vestita come una principessa. Quando la matrigna vide Jelina rientrare vestita con quell'abito da principessa, si infuriò assai. «Brutta sfaccendata e mangiapane a tradimento! Dove sei stata fino adesso? Che significa quel vestito? Di chi è quel batacchio d'oro? Dove li hai presi?» «Matrigna mia, vi prego, non mi picchiate. Oggi sono successe cose che non riuscirete a credere». Quando Jelina finì di raccontare, la matrigna Euterpe non volle credere a una sola parola. Accusò Jelina d'essere una ladra e subito la sorellastra Genoveffa pretese che le venisse dato il vestito principesco. La matrigna ordinò a Jelina di consegnarle il batacchio d'oro e di filare poi in cucina a togliersi il vestito per consegnarlo a Genoveffa e cuocere il cavolfiore perché avevano fame. «Madre mia, ma questi doni li ho ricevuti dalle volpi bianche per il mio lavoro», obiettò Jelina. «Ma di quali volpe bianche vai inventando, bugiarda e ladra? Avanti, sbrigati, vai in cucina e levati quel vestito. Tu non sei una principessa, perché tuo padre era un miserabile villano. Muoviti, serva, altrimenti assaggerai il nervo di bue che già conosci». Jelina chinò il capo, diede il batacchio d'oro alla matrigna, prese la cesta con il cavolfiore e andò in cucina, seguita da Genoveffa. Quando vi giunse, si levò il vestito principesco e lo posò sul tavolo. Genoveffa lo afferrò come fosse un rapace e corse dalla madre. Jelina, rimasta sola, indossò i soliti cenci da serva e iniziò a preparare il tutto per cucinare il cavolfiore. Riempì una grande pentola d'acqua fresca e prese un coltello affilatissimo per tagliare le radici all'ortaggio. Ma proprio mentre stava per reciderle, sentì la vecchia voce. «Fermati, Jelina, non tagliarmi». «Papà», sospirò Jelina, «figliola cara, mettimi dentro la pentola». Jelina fece quel che il padre le aveva chiesto e dopo aver immerso il cavolfiore nell'acqua, le sue radici iniziarono ad allungarsi, diventando sempre più grandi, e con il cavolfiore in testa si trasformarono in Antonicco. «Papà, sei tornato!» disse la ragazza con grande gioia. «Ma non resterò a lungo, dolce Jelina. A noi morti non è concesso tornare in vita. Sappi però che fu la tua matrigna Euterpe, donna crudele e infida, ad avvelenarmi con una porzione malefica preparata dalla strega Polinnia, la megera che vive nella sorgente delle pulci di neve. Quella mattina, prima che mi recassi al lavoro nei campi, Euterpe versò il veleno nel fiasco di vino. All'ora del riposo mi fermai per desinare e mi sedetti all'ombra di un olmo. Bastò che bevessi un sorso di vino perché non sentissi più le gambe e le braccia. Pensavo d'aver esagerato con il bere, ma non era mai stata mia abitudine. Mi guardai e tastai il corpo e sentì che si stava trasformando. Vidi che ramificava, come se spuntassero le radici, e s'allungavano verso terra finché fui trasformato in un cavolfiore. Figliola mia, se tu, quando mi hai trovato, avessi reciso le mie radici, io non sarei potuto essere qui per vendicarmi contro quella donna malvagia. E quando le avrò dato la lezione che merita, solo allora potrò finalmente abbracciare tua madre, la mia amata sposa, Alinora, che quel male oscuro ci portò via quando tu eri ancora piccina. E allora, finalmente, riposeremo insieme e in pace. Padre mio, ti scongiuro, non mi lasciare sola. Che sarà poi di me? Dove andrò? Che farò? Non devi aver pensiero di questo, figlia mia. Io starò sempre accanto a te e la tua bontà ti aiuterà a trovare un buon compagno, magari un principe, perché c'è sempre un principe da qualche parte nelle fiabe, no? Bene, tra poco dovremo lasciarci, figlia mia. E perché io possa punire Euterpe, tu dovrai fare quel che io ti dirò. Quando sarà il momento, ti ordinerò di correre via, fuori da questa casa. Via, più veloce che potrai, ma mi raccomando, non dovrai voltarti indietro. Dimmi che lo farai. Farò quel che mi hai ordinato, padre mio. Antonicco e Jelina si abbracciarono. In quell'istante apparvero Euterpe con in mano il batacchio d'oro e sua figlia Genoveffa, che portava sul braccio l'abito da principessa pronto da indossare. Alla vista di Antonicco, madre e figlia rimasero impietrite. Di colpo il batacchio d'oro cadde dalle mani di Euterpe e rotolò sino ai piedi di Jelina. Pure l'abito principesco scivolò via dalle braccia di Genoveffa e cadde a terra, al cui fianco apparve un sacco colmo di pietre preziose. Fu allora che Antonicco ordinò: «Presto, Jelina, prendi il battacchio d'oro insieme al sacco e l'abito principesco. Corri via, più veloce che puoi, non aver paura. Loro non potranno muoversi più. E ricorda di non voltarti indietro!» Jelina prese ogni cosa e si precipitò fuori dalla casa e corse senza voltarsi indietro. Il cuore le balzava in petto. Alle sue spalle le giunsero frusci lontani, come frustate e grida di terrore. Che stava succedendo? Antonicco era tornato ad essere un cavolfiore. Le sue radici s'erano allungate, divenendo gonfie e grosse. Si intrufolarono in ogni dove, in ogni anfratto, in ogni stanza della casa di Euterpe, avvolgendo e strittolando con forza tutto quello che incontravano. I corpi di Euterpe e di Genoveffa furono avvolti dalle radici, che iniziarono a succhiare linfa dai loro corpi, finché madre e figlia si dissecarono come stoppie al sole. E della madre e della figlia e di tutta la casa non restò che un grande e immenso cavolfiore, la cui radice sprofondò laggiù, sottoterra, finché rimase il silenzio ad avvolgere ogni cosa. Trascorse qualche attimo e le foglie del cavolfiore s'aprirono come un ventaglio. Dal cuore del frutto vennero fuori i corpi velati di un uomo e di una donna. Erano Antonicco e Alinora, il papà e la mamma di Jelina, che, presi per mano e con la gioia nei loro sguardi, fluttuarono nell'aria, liberi, felici e di nuovo insieme, per sempre. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net